Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Michele Tosò, che guida come sempre in regia, le telecamere c'è Roberto Baldi, e stasera abbiamo un musicista di Tolmezzo, ma che vive un po' di tempo, vero, sì, a Venezia, sì, per motivi di studio, Brown and the Leaves. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a te. Sì, sono stato piacevolmente sorpreso dal tuo disco, un disco veramente interessante, acustico e non soltanto acustico. Brown and the Leaves... Le foglie, cosa sono queste foglie? Collaboratori tuoi o interpretazione tua? Ma come dicevo prima a te in privato, ma potrebbe essere a libera interpretazione, diciamo. Inizialmente come idea si legava al nome Brown. Esattamente. Per cui lo rinforzava come atmosfera. Però diciamo che ha un altro significato anche, perché è un tributo a una poesia che a me è sempre stata molto cara, che recita appunto: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Perfetto. Ungaretti, che secondo me, cioè, che mi ha sempre colpito fin da ragazzino, ma perché poi lo associo a un'immagine che secondo me è molto calzante, non solo per quella condizione che lui descriveva, ma anche forse per la vita stessa nostra. Certamente. La difficoltà di fare un disco da solista è stata tanta. L'impegno, questi pezzi qua che tu hai mandato nel CD sono pezzi che avevi scritto tempo fa, sono pezzi che avevi scritto da poco? Ma la genesi è stata abbastanza continua, cioè non c'è stata una fase di scrittura molto intensa che è stata ormai nel fine 2007-2008, ho preso quasi tutto 2008 e fino a poi a trovare le collaborazioni con chi poi ha prodotto e registrato il disco, questo nel marzo del 2009, di quest'anno. Hai trovato Paolo Messere, che è un produttore, sì, cioè uno che ama particolarmente scoprire nuovi talenti, ha un'etichetta, Sea Horse, che è un'etichetta, sì, che lui ha fondato un po' di tempo fa, però tu hai inciso per una sub-etichetta della Sea Horse. Sì, Paolo aveva in mente questa idea, perché... lui è molto legato ai progetti solisti, al cantautorato, infatti lui... cioè, i gruppi sono molto psichedelici. Sono molto psichedelici, però lui ha anche una vena molto, molto cantautorale, certo, molto da songwriter. No? Esatto, come da songwriter, hai detto qualcosa, da songwriter, esattamente. Per cui aveva da tempo in mente questo progetto, nel quale lui comunque vuole anche militare come musicista. E penso farà uscire qualcosa prima o poi di suo con questa sub etichetta. Esattamente. Però con questo progetto ha intenzione di concentrare l'attenzione su progetti solisti, su progetti che hanno questa caratteristica più appunto di scrittura associata alla musica e viceversa. Certo. Benissimo, allora apriamo il discorso, sentiamo, diamo una fotografia musicale del pezzo. Sentiamo il primo disco, chiaramente la prima traccia dell'album. Salutiamo un momento la nostra redazione, che è tutta al femminile, certo, la redazione, quindi la Patrizia, la Silvia e la Nicoletta, che sono la redazione femminile di Rock Wave. Salutiamo Alberto Prisco, che ha collaborato alla stesura del programma, e andiamo avanti, iniziamo questa cavalcata. Primo pezzo che hai scelto, come si intitola? Si chiama Brand New World ed è il primo pezzo che proprio apre, che apre la finestra, apre la finestra e apre il disco proprio. Benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. Each day's of broken dreams. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo. Brand New World, con una bella apertura. Queste spazzole hanno un certo fascino, non c'è niente. La batteria con le spazzole, non con le bacchette, con le spazzole. Tutto il disco è permeato da queste spazzole. Come mai? Bravo. Sì, è una l'atmosfera soprattutto. È l'atmosfera che conta. Sì, sì, sì. Tu a microfono spento dicevi, non sei molto collegato alle atmosfere jazzistiche. Cioè il jazz sì, però un po' messo da parte. Però l'atmosfera è quella che conta. Sì, infatti mi ha sempre colpito questo del jazz. Purtroppo non ho mai approfondito perché non sono stato mai interessato alla cosa, però quello che fanno gli altri gruppi, cioè i gruppi che di solito seguo con questa atmosfera mi ha sempre affascinato, per cui è proprio una questione quasi tattile, quasi... E l'idea delle spazzole, il batterista, sì, che ha suonato le spazzole, è stata tua praticamente? È venuta insieme. Io ce l'avevo già in testa. Possiamo citare i musicisti visto che ci sono, che ci sei? Sì, hanno suonato nel disco Vincenzo Zingaro. Sì. E Vincenzo Zingaro che è dagli Unmade Bad, un gruppo fiorentino, sempre dell'etichetta come si chiama l'etichetta? Sea Horse, però nel mio caso è Red Birds, diciamo che è una sottoetichetta della Sea Horse. Che... Citiamo anche il titolo dell'album, come abbiamo detto. È vero, Landscapes. Bellissimo. Anche la copertina è molto bella. Molto bella. L'abbiamo fatta vedere mezz'oretta fa nell'anteprima con Roberto. Però purtroppo in radio non possiamo farla vedere. Sì, no, lo possiamo vedere la copertina. Ah, beh, certo, l'abbiamo già fatta webcam. Vedere con le telecamere. Ricordiamo diretta rockway.altervista.org. Ci potete vedere e sentire stasera. Bene, è proseguiamo vero. Pure allora con i musicisti. Sì, poi io ho nominato Vincenzo Zingaro finora. Sì. Poi Lorenzo Gambacorta alla batteria, che è proprio quello delle spazzole. Quello delle spazzole, l'idea delle spazzole. Sì, poi Fabio Centurione al violoncello. Bellissimo, che dà un certo senso, un certo fascino, anche oscuro, tenebroso, malinconico, bello. Sì, infatti lui ha fatto un lavoro pazzesco. Straordinario. Ed è infatti un gran musicista classico, soprattutto napoletano. E la classicità come si sposa con le tue atmosfere? È stata molto inaspettata, ma diciamo che ha dato una sferzata bellissima che non contavo, sinceramente. Mi ha aiutato molto a dargli un'atmosfera molto più mediterranea, perché okay, proprio secondo me si sente... questa vena partenopea di Fabio. È il messere che partenopeo ti ha dato una mano. Anche lui, anche sì. Lui. Lui è tanto tenebroso. Ah, è tanto tenebroso. Cioè, lui è napoletano. Sì, però... però è un napoletano atipico. È quasi inglese. È quasi inglese. Un anglo-napoletano. Ecco, sì, però Fabio invece ci ha dato un tocco molto più mediterraneo. Molto certo, più. Certo. Ed è stata quasi un po' una sfida quella, perché le atmosfere, sia poi musicali mie... di ascolto, sia poi quelle suonate fanno riferimento a una certa anche area geografica, diciamo, dell'Europa. La citiamo quest'area geografica? Sì, principalmente l'area scandinava. Scandinava, chiaramente. Sì, e poi parleremo dell'area scandinava fra qualche minuto. Sì, inglese, scandinava, sì, sì, diciamo. E per cui l'idea era comunque quella, visto che noi non siamo scandinavi, no, fino a prova no. contraria, siamo italiani, l'idea è quella di filtrare tutto questo nel nostro mondo appunto italiano, nel certo. mio caso carnico friulano, per cui cos'è stata la sfida? Quella di dare le atmosfere che appartengono a noi, però vestirle di un'atmosfera nordica e viceversa. Non so se ci siamo riusciti, però... Ma secondo me sì. Qualcuno ha parlato, ho letto le tue critiche, sono state decisamente tutte molto positive, che Venezia ha dato una mano anche in questo. È sì, vero? Sì, certo. Venezia dal punto di vista proprio della città, del fascino della città. Beh, ha dato una mano molto nei testi. Certo. Nei testi e nelle atmosfere musicali, ma... più che altro per la sua condizione forse di porto, di mare, ci sono certi riferimenti proprio al porto come anche immagine metaforica, certo. Insomma, mi interessa molto nei testi l'aspetto di viaggio che lo interpreto in un viaggio fisico, però uso dei viaggi fisici ovviamente per significare altro, per significare dei viaggi più interiori sicuramente, E in questo Venezia, essendo proprio un luogo di vai e vieni, certo, perché alla fine, ok, io ci vivo perché studio, ma anch'io sono in un certo senso di passaggio. Sì, vai e vieni anche te, praticamente. Vado e vengo, e poi so che mi fermerò ancora un anno, poi me ne vado. Poi è una città molto caratterizzata proprio da questo, da degli eventi ai quali la gente partecipa, viene da chissà dove, poi se ne va. E quindi conoscere persone che poi vanno e vengono, questo aspetto temporaneo mi affascinava di Venezia, oltre alla sua dimensione geografica, naturale, fisica, che la sappiamo, cioè, tutti. Città, insomma, unica al mondo. Sì, sì. Bene, passiamo al secondo pezzo che hai scelto per iniziare. L'altro pezzo, ti ricordi il titolo? Adesso non mi... Ah, ok, infatti Michele ha porto, giustamente, hai fatto, grazie, vedere, dell'aiuto. No, è Quiet Life in a Quiet Place, che proprio capita giusto, capita a fagiolo, perché sì, parla proprio di questo, cioè parla del porto, parla anche della qualità di una vita tranquilla in un posto tranquillo, proprio come nel titolo. E anche dell'analogia che c'è tra Venezia e la Carnia, il mio paese, il Tolmezzo, il mio paese. C'è proprio la diversità di una vita rispetto a quella di città, dove i tempi più dilatati, sì, cose molto semplici, insomma, della vita di tutti i giorni, che però io magari quando sono fuori, sono lontano da queste realtà, mi mancano molto, per cui l'ho voluto scrivere in questo pezzo. Perfetto, adesso la sentiamo assieme, allora. Rock Wave, l'onda del rock. Nothing more. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, l'inserimento della bossa nova nella musica brasiliana, questo incastro tra la musica folk, la tua musica folk e la bossa nova, l'idea, come è partita? Giustamente tu hai detto ai microfoni spenti, è molto diluita, però c'è, esiste. Sì, è molto diluita anche perché io non sono un esperto conoscitore della bossa nova, della bossa nova sudamericana. Sì, solo quel poco, quello che più si conosce. Mi è sempre piaciuta proprio la loro idea, o meglio, l'idea che ho io della bossa nova, che finché non andrò in Brasile a curare, non potrò dire se combacia alla realtà. Però mi piace unire la loro sentimento così nostalgico a comunque delle melodie che non lo richiamano immediatamente. Cioè, c'è nelle liriche, c'è nelle melodie, magari vocali. Però la musica segue altri percorsi, c'è comunque ritmo. Cioè, è come dire, ok, la vita è fatta molto di ricordi, di pensieri, di dispiaceri anche, certo. Però non possiamo stare qui a lamentarci, non possiamo stare qui a rimanere nella nostra solitudine, nella nostra tristezza. Bisogna vivere, sì. E viviamo attraverso il ritmo, attraverso la musica, attraverso la bossa nova da ritmo, da movimento. Cioè, ti dice delle cose, ma ti dice anche che non è giusto fermarsi solo su quelle cose. E ci sono sempre le spazzole, però. Ci sono sempre le spazzole. Anche quello dà ritmo. Un ritmo pacato, ma dà ritmo anche quello. Sì, si dà colore, ritmo. Sono tutti stati. Cioè, gli interventi che ci sono nel disco sono tutti di colore. Sì. Perché i pezzi poi. Hanno la struttura dei pezzi. E come crea un pezzo Brown Develizzi? Dobbiamo saperlo. Sì, i pezzi che ci sono nel disco in studio non sono stati toccati nella loro struttura, nelle loro parti. Sono rimasti quelli che suonavano nella cameretta, sostanzialmente, certo. Con la chitarra e la voce. Per cui è stato proprio un lavoro di precisione, di andare ad aggiungere delle cose solo per rinforzare certe atmosfere, ma non ad andare ad integrare una struttura, una melodia. E, per cui posso dire okay, che i pezzi iniziano con la chitarra e la voce, spesso solo con la chitarra, poi la voce viene in un secondo momento, anche se ultimamente le cose vanno un po' di pari passo. E la cameretta di Tolmezzo o la cameretta di Venezia? Tutte e due. Anzi, spesso la chitarra nasce o in una cameretta o nell'altra. La voce nasce negli spostamenti. Nasce in treno. Nella mia testa non è che mi metto a cantare. No, chiaramente no. Nello scompartimento del treno. Diceva Finardi tempo fa, che avevamo intervistato qualche anno fa, che lui, se aveva un momento, un pezzo che veniva in mente, spesso girava in treno anche lui, prendeva un taccuino e cominciava a scrivere il testo in treno, in qualsiasi momento del percorso del treno scriveva. Ma io parlo per me, dico che il treno è una fonte, è uno stimolo molto forte, perché è un modo di viaggiare unico. Umano, soprattutto umano. Umano, ma poi che ti lascia libertà di pensare. Si trovi il posto a sedere. Si trovi il posto. Sì, quelle sono le nostre linee del Veneto. Esattamente. Sono ben piene. Molto piene, sì. Noi che siamo pendolari da una vita, io parlo per me stesso. Tu sei pendolare a fine settimana o sempre quasi. Sempre meno. Io sì, tutti i giorni, vero Michele? Anche tu sei pendolare. Per cui spesso in piedi, no? Moltissime volte in piedi. E lì cosa si fa? Niente, si aspetta. Si aspetta di arrivare alla stazione, però si può pensare in ogni caso. Anche nella confusione, nel movimento, ma si può pensare. Sì. No, quello no. Quello forse non si può fare. Quello non si può fare. Però si può pensare, quello sì. Sì, perché innanzitutto non sei impegnato come quando guidi o quando vai in bicicletta. Certo. Anche se in bicicletta si può pensare. Si può pensare sempre. Sì, si può pensare sì. Però in treno, cioè, se trovi soprattutto il posto a sedere vicino al finestrino, guardi fuori, ti lasci cullare. Sì, esatto. Se non hai sonno, se non prendi sonno. Ma spesso, ma spesso poi le cose sono sequenziali. Ma è giusto, è giusto. Io mentre sto pensando a un testo, poi se mi addormento, mi addormento. Non è che cosa posso fare? Non c'è niente da fare. Cioè, non porta anche questo. Porta a pensare, a costruire, come diceva Finale, dei pezzi, come tu hai detto, però porta anche a dormire, a rilassarsi. Sì, sì, no, ma è una dimensione che, anzi, io spero di continuare a viaggiare in treno. Bene. Più spesso possibile. Ok, bene, siamo quasi arrivati, e non siamo arrivati al momento di fare il primo pezzo dal vivo. Sì. Cosa dici? Sì, sì. Cosa hai scelto per iniziare il live? Farei Erasmus. Benissimo, un pezzo che hanno giudicato tutti i critici in modo splendido, è un grande pezzo. Dipendentemente dai riferimenti, lasciamoli perdere i riferimenti. Lasciamoli stare. Sei te e basta, quello è importante. Sì, ma poi rientra perché parla anche qua di viaggi, parla di distanze soprattutto, parla del... parla del solito amore a distanza, se vuoi, sul fatto che certo. Effettivamente uno ci prova, ma poi vede che non funziona. Esatto, quello è inutile, la realtà è che non funziona. Purtroppo così capita. Rock Wave, l'onda del rock. Tell me how does it feel to leave in the heart away from your home, from your friends, from me. Isn't it enough to forget? Isn't it enough to share your bed with someone else? Sometimes it takes more, sometimes it takes less. Of course it's not your fault, we already talk. And now it's time to sink us past the stones in this world made by illness and your soul. I don't know if I'd be there or no. In this world made by illness, by your soul. Eyes and your soul. Tell me how does it feel right in your mind? Call all what you have here comes crashing down. Yes, it's real. Isn't it enough to forget? Isn't it enough? Your bath with someone else. Sometimes it takes more, sometimes it takes less. Of course it's not your fault, we already talk. And now it's time to sink us faster. Stones in this world make my illness and your soul. I don't know if I'd be there. Oh no. In this world made by illness. Now it's time to sink as fast as stones. In this world made by your own arms. And your soul. I don't know if I'd be there or no. If this world made my enemies, I am so whole. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, bella versione, la tua versione leggermente, chiaramente doveva essere diversa, versione chitarra e voce in questo momento. Sì, sì. Proprio scarna, essenziale, ma è giusto così, perché il pezzo è venuto fuori da questo praticamente. Sì, sì, nasce così e rimane pressappoco così. Come dicevo prima, gli interventi nel disco sono molto minimi, siamo andati molto di bisturi, no? Benissimo. Cosa vuol dire di bisturi praticamente? Di bisturi perché, diciamo, bisogna limitare la volontà che uno ha, cioè il desiderio più che altro che uno musicista ha nell'avere uno studio a disposizione, nel poterlo usare e tipicamente sì, nell'abusare anche di strumenti, no? Certo, perché certo. Quando si può anche spaziare nell'elettronica, magari che ormai è diventata parte integrante di anche un discorso magari più cantautorale, più folk, come fanno diversi musicisti. Invece abbiamo cercato di mantenere non vorrei dire minimalismo, perché si chiama in causa un intero movimento, sì, vero. Un'intera cultura, no, direi una misura, ecco, mantenersi misurati in quello che si fa, essenziali. Una cosa che ho scoperto leggendo nelle note, mi sono informato, chiaramente è giusto che sia così. Sei passato dall'hip hop al punk, all'hardcore, al grunge e sei arrivato al folk a 360 gradi. Com'è questa evoluzione? E poi sei stato colpito sulla strada di Damasco da Nick Drake. Già. Ok? Com'è questa strada? Non so, la passione, no, non è la passione, proprio la mia vita, la mia vita, sì. Cioè, ma avevi un gruppo te precedentemente? Sì. Ho letto anche quello, adesso non mi ricordo come si chiamava questo gruppo. Si chiamava Common Cold. Che genere era? Facevamo un genere, noi eravamo molto molto appassionati, molto interessati alla produzione di Steve Albini. Ah, quindi suonavi bene la chitarra allora? La no, grande? No, no, no, ma neanche lui non è un grande chitarrista. Beh, insomma, è un grande produttore. Lui non si vuole definire produttore. No. Lui è un purista del suo, poi sì, diciamo è un tecnico. Un tecnico, hai detto giusto, un tecnico, un grandissimo, sì. Tecnico. Non è un virtuoso della chitarra, più che altro dei suoni. Sì. E, sì, eravamo proprio folgorati da ragazzini così, e assieme anche altre band italiane che anch'esse hanno seguito molto queste produzioni, come One Dimensional Man, eccetera. Esattamente. Sono duro, tosto, lisergico, sì, in alcuni Uzeda momenti. Sì, esattamente. One Dimensional Man sono dentro queste parti, sono veneti, quindi. Sì. per cui quello lì era quello più che altro, il, certo, panorama. Eravamo anche molto appassionati dei Fugazzi. E un altro gruppo ben tosto, anche pieno musicalmente, cioè un gruppo che ha seminato parecchie cose interessanti per tanti, sì, altri. Ma infatti sono quei personaggi trasversali, sì, perché possono essere associati anche a un certo contesto musicale, che però cioè, dal quale molti hanno preso, anche non così apparentemente in modo chiaro, ma si riferiscono molti a questi personaggi. Tra l'altro ho visto Ian McKay, uno, sì, dei due protagonisti, non tanto tempo fa, a suonare con la sua compagna, credo, certo, a questo progetto con chitarra acustica, chitarra baritona, e lei ha la batteria. E spiega un momento cos'è la chitarra baritona. La chitarra baritona è detto volgarmente, perché comunque non conosco un altro modo per dirlo, non sì, perché, ma okay. Perché sono molto volgare nelle definizioni, è un incrocio tra chitarra e basso. Ho capito. per cui è una chitarra che ha un suono particolare. Sì, è una chitarra con un manico un po' più lungo e anche delle corde con un'altra tiratura e un'altra dimensione, un'altra sezione, cioè un certo, po' più grosse. Per cui ha questo suono abbastanza riconoscibile. E lui suona, ed è comunque generalmente acustica o anzi semiacustica. Anzi anche elettrica l'ho vista, per sì, cui sì, no, diciamo ci può essere anche elettrica, sì. Esattamente. Però l'ho visto suonare, però lui lo suonava con suoni molto molto vicini a una chitarra acustica, però con un'energia, un'intensità, rimane l'energia e l'intensità, insomma, tantissimo, uno di quelli che non è che è legata al rumore, l'energia, certo, l'intensità o i decibel, è legata al modo di sentire e suonare la musica, per cui certo, quello è il mio background e ne sono fiero. Però hai fatto un bel salto. Non posso dire che hai fatto un bel salto, hai fatto un'evoluzione, sei ritornato alla chitarra acustica. Sì, sì. Che non è un'involuzione, è un'evoluzione, secondo me. Qualcuno potrebbe dire il contrario. Io penso che sia un'evoluzione. Ma è una strada. Una strada. Leviamo via una strada, hai detto giustamente, una strada. È una strada perché io sinceramente pur amando quelle sonorità di cui abbiamo appena discusso, appena parlato, non le sentivo. Cioè, ho capito che, cercando di ragionare da musicista, non solo da ascoltatore, ho capito che c'è una differenza tra ciò che si vorrebbe, ciò che piace all'ascolto, ciò che si vorrebbe fare, sì, e ciò che in realtà dentro di noi sentiamo di fare. Sì. E inizialmente queste due cose non coincidevano. Perché mi piacevano queste sonorità, questo modo di fare musica, ma non era il mio, cioè non le sentivo dentro di me. Ho avuto bisogno di fermarmi un attimo, di chiedermi cosa avevo dentro. Esattamente, potevi sviluppare questo discorso. Sì, cioè proprio seguire effettivamente quello che sono. Perché poi sembra facile, ma no, non lo è. Non è facile, è molto difficile. Chi sei e cosa vuoi. Sembra semplice, ma non è così. No, assolutamente. Sotto tanti aspetti, non solo quello artistico, professionale. Certo. Per cui, quindi hai intrapreso questa strada, questa via da allargare, da percorrere. Perché nel disco ci sono 11 pezzi, mi pare. Sì. Ci sono dei pezzi anche, ce n'è uno molto lungo, molto articolato, che va oltre al discorso di chitarra folk o di chitarra acustica o di chitarra appena appena delicata, va oltre, va su sentieri decisamente diversi. Sì, comunque l'idea era quella di variare, cioè nelle nostre massime possibilità, cercare di esplorare tutto quello che potevamo esplorare all'interno di un certo discorso. Per cui forse quel pezzo lì ci ha dato la possibilità, visto che era parecchio lungo, sì, molto lungo, cioè, sì. Ripeto, comunque la stesura dei brani, cioè nella loro composizione, strofa, ritornello, è identica, è rimasta identica al lavoro che ho fatto io da solo, certo, nell'anno precedente. Chiaramente. Per cui si presentava così il pezzo, molto lungo. Per cui necessitava di alcune variazioni, questa colorazione particolare sì, contando poi che ha un tempo anche dispare, sì, chiaro, sì, non è così immediato come scelta, anche sia ritmica e melodica. Per cui poi quello che è stato pensato è nato insieme è stato un pezzo nel quale hanno lavorato molto gli altri del team, del gruppo neoformato, certo. Per l'occasione, le foglie. E, sì, per cui tutte quelle chitarre slide, sì. È quello che volevo arrivare, quello mi ha mai preceduto, le chitarre slide hanno un certo senso. Benissimo, allora sentiamo un altro pezzo dal disco, ti ricordi la traccia? Adesso Michele alza un momento Michele, il foglietto. Michele, sempre d'aiuto. Just Let You Know. Ecco, benissimo. Vuoi parlarne un momento prima? Oppure... È un pezzo che io credo, per me, è il mio pezzo preferito del disco, sia come è stato, come è riuscito poi nella registrazione, nelle scelte di arrangiamento, sia poi perché mi sono affezionato, perché è un testo che parla di giovinezza, parla di... insomma, non vorrei adesso dilungarmi la spiegazione. Sentiamolo. Sì. Rock Wave, l'onda del rock. it's not here, the year than before. When your arm was upon my back, in this black and white photograph, I heard lost in time, a childhood lost in time, where all seems so clear and perfect. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, parlavamo mentre il pezzo andava. Pezzo danzereccio, questi incastri, queste chitarre acustiche ed elettriche, questo danzare, questo muoversi, molto divertente, molto accattivante, divertente nel senso positivo del termine. Sì, sì. Dimmi, spiegami un momento l'idea di questo intreccio delle due chitarre elettriche ed acustiche. È un'idea puramente di Vincenzo, il chitarrista elettrico che poi ha suonato anche altre cose nel disco, qualche tastiera, qualche Rhodes. Cioè tutto praticamente. Sì, sì, beh, lui è un polistrumentista veramente notevole, sì, anche perché è molto giovane, ha un anno meno di me, quindi sei giovane anche te, chiaramente. Ma insomma, ti possono vedere, sei giovane. rispetto al sottoscritto e a Michele. Michele è più giovane di me, chiaramente. Michele è più giovane di me. Cosa vuoi fare? Sì, Vincenzo, appunto, ha avuto questa idea di chitarre sovrapposte, infatti soprattutto nel finale c'era questa sovrapposizione di chitarre elettriche su diverse diverse tonalità, per cui c'erano le sue quattro chitarre elettriche più la mia classica, la mia acustica, per cui sono un bel incastro, sì, sei chitarre più un'arpa, bello. No, poi il contrabbasso va sfumando, sì, insomma, cioè, ridendo e scherzando ci troviamo sempre con diversi strumenti. Parliamo ora degli archi, il discorso degli archi, questo a distanza spieghiamo, sì, l'arcano, spieghiamo questo aneddoto in particolare del disco, che sia Fabio, che è il violoncellista, certo, sia Ilaria la contrabbassista nel disco, non li ho mai incontrati, non li ho mai conosciuti. Perché abbiamo appunto loro lavorano e vivono a Napoli, io a Venezia, per cui sì, era un po' difficile trovarsi per provare, però abbiamo lavorato appunto a distanza, visto che ormai i mezzi lo permettono facilmente. Abbiamo lavorato via mail per 2-3 mesi, mandandoci vari provini, ed è stato meravigliosa, strana, anche abbastanza, sai, quando ed è una cosa che continua, questo che sto per dire, perché comunque anche nella formazione live abbiamo diverse modifiche, diversi ingressi. E come suoni live? Ci arriviamo. Ah, ci arriviamo. No, volevo dire che i pezzi hanno subito e stanno continuando a subire notevoli intromissioni. Per cui da un'idea mia iniziale di chitarra e voce all'idea finale che c'è nel disco, poi all'idea, che è un'altra cosa ancora live, ce ne passa. Sì, ci sono diversi punti e quindi i pezzi continuano a essere scioccati, diciamo, almeno nella mia idea iniziale del pezzo, e questo è una cosa che è difficile, secondo me, da metabolizzare, però è una cosa che ti dà una grande ricchezza. E poi ti fa anche capire se un pezzo rimane in piedi o no, perché se tu lo violenti così, no? Anche dandolo in pasto a non dico a chiunque, perché le persone che hanno lavorato con me, anzi ho avuto la fortuna di incontrare questi ottimi musicisti, e poi anche le persone che direttamente coinvolgo io in quello che faccio, che ovviamente alla base c'è una stima reciproca. Però stai dando in mano qualcosa di tuo intimo a un'altra persona che ha magari un'idea un po' diversa. Per cui questo è stato, cioè i pezzi sono sempre stati messi alla prova molto, e ne sono usciti, secondo me, più forti di prima, per cui insomma è stata una prova sicuramente positiva. Poi parlando del live, il live dipende dalle situazioni. Spesso suono come stassera chitarra e voce. Chitarra e voce. Come mi è capitato domenica scorsa, certo, con i Moom. Ricordiamo, se hai fatto da supporto praticamente, sì, all'inizio, sì, del concerto, prima che i Moon, cioè il concerto di Moon, sei entrato sul palco e hai fatto, sì, i tuoi pezzi praticamente. Sì, sì. È stata una grande emozione, o no? Certo, è stata. Il contesto era molto bello, il pubblico era molto, molto attento, entusiasta. Non mi era mai capitato di. Di solito appunto salgo sul palco e si parte da ma chi è questo, no? Ah, chi è questo? Chiesto tendenzialmente chi è questo sfigato con la chitarra, no? Perché si ha una certa predisposizione alla negativa, uno sale sul palco perché dice: ma questo cosa chi vuole è fare? Chi è in dialetto, chi sia questo? Appunto. e lo capisco anche questa idea. Per cui è un po' una conquista del pubblico, certo. E magari capita che a fine concerto c'hai qualche persona in più che si è seduta, si ferma e ti chiede qualcosa. Così. In questo caso, nel caso di un pubblico innanzitutto pagante, un pubblico che anche quello c'è da dire, che certo, insomma, c'è un'altra dimensione, no? Io vado una serata a vedermi un concerto, so chi vado a vedere, e già questo è una cosa importante. Poi si stava parlando comunque di un pubblico che ha una certa preparazione anche musicale, che segue. Sì, io non faccio niente di... Non è un gruppo così, è un gruppo che si deve seguire attentamente. Sì, si vuol dire che se segui Moom segui anche altri gruppi, chiaro, o forse no, però è facile di sì. E, per cui magari sei anche predisposto verso queste atmosfere. Sì, io non faccio niente di inaccessibile, no, anzi è molto pop, certo, il mio prodotto, credo. Però lo stesso, in questo contesto qui c'era molto entusiasmo, c'era molta partecipazione, mi sembrava di conoscere tutti quelli che c'erano, perfetto, nel senso, perfetto, anche se non era così. Per cui sembrava di essere a casa, solo che la tensione c'era molta emozione, ero da solo. Certo. Non ti hanno tirato i pomodori, perché di solito chi presenta che inizia un concerto di una grande star, dopo la gente non vuole subito sentire la grande star. Anch'io credevo. Ecco, tirano i pomodori. Una volta tirano i pomodori oppure le parolacce. No, ma almeno dicevi, sai, percepisci, dai, quando finisce questo arrivano quelli che voglio sentire. Invece non era così. Invece, innanzitutto mi hanno accolto con un applauso. Bene, che non mi è mai capitato. Vita mia, questo è molto positivo, cioè salire sul palco e avere un applauso, anzi mi ha messo in grande imbarazzo e non sono riuscito a togliermelo fino alla fine, perché mi aveva messo veramente in una condizione alla quale non sono assolutamente abituato, e per cui sì, è meglio di così, non si poteva avere. Io potevo fare molto meglio in realtà, ma hai rotto l'emozione personale come supporto di questa band molto famosa adesso. Una volta no, ma adesso è stata famosa in tutta Europa, quindi. Sì, ma poi loro come te li immagini? Sì. Cioè, abbiamo chiacchierato un poco perché loro erano molto molto gentili, disponibili, però abbastanza riservati. Certo. Per cui è anche abbastanza, insomma, cercavano una loro, insomma, quando sei in tour, credo che è fondamentale trovare la tua dimensione almeno personale, individuale, perché sei sempre in giro, sei sempre a contatto con persone, magari se vuoi avere un angolino tuo, certo, te lo prendi. Per cui erano in una situazione nel backstage, ovviamente erano in questa situazione, e anch'io d'altro canto cercavo un po' di concentrazione per, esatto, il concerto. Però persone, anzi, mi hanno ringraziato, mi hanno fatto i complimenti, cose molto rare anche tra colleghi, sì, insomma, è stata una cosa molto positiva. Suoniamo qualche pezzo adesso, un altro pezzo, dai. Cosa hai scelto di... Faccio Don't Make a Move. Perfetto. Don't Make a Move. Un attimo che mi sistemo. No, qua il bello della diretta. Tutto in diretta, non c'è niente di prefabbricato. Ecco, mi sistemavo un attimo il cavo per la chitarra. Sei pronto? Ok, adesso partiamo. Rock Wave, l'onda del rock. Plans. I actually got no plans. I don't mind if I don't take a chance to change my life, to change my life. I've never heard of the artist's name, but some people said it's cool. We will find a lot of good food and wine. So to see you there, don't forget to spread the word. What about you? What are your future plans? Actually, I've got no plans, and I don't mind if I don't take a chance. What about you? What are your future plans? Actually, I've got no plans, so please don't ask me again. Listen to the sound of your own breath. Love me. Don't say a word. Stand still. Enjoy the air around you. Love me. Love. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Sono le 23 e 8 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, mi faceva notare giustamente Alberto che questo tuo pezzo è in classifica, nella nostra classifica di Rockway, che cura Alberto Prisco tutte le settimane. Sì. Eh sì, infatti notavo. È un bel pezzo, merita assolutamente. Sono molto contento. Bene, mi fa piacere che tu sia contento. Siamo arrivati allo spazietto, lo spazietto dei 5 dischi da portare su un'isola deserta. Una volta erano i dischi, adesso c'è un ritorno al vinile, chiaramente. Sì, io... Però dimmi. No, sul vinile non so. No, non dici niente sul vinile. Non lo so, non sono un amante dei supporti in generale, non so, non ho più che altro non ho un amore sull'oggetto, ah, non sono mia affezione. Però il vinile aveva un altro fascino, no, io che ho mi rendo conto, sì, una certa età, sai, sì. Aprire un vinile, aprire un disco era un'altra cosa, aprire un CD... Vero Michele? Non dice niente, non sì, dà sì, colorazione, sì. Non dà sentimento, secondo me il vinile è un'altra cosa. A proposito di vinile o CD, quello che vuoi, i tuoi 5 dischi, 5 entità musicali che ami particolarmente, 5 sono poche chiaramente, sì. Ma se no andremo fino a domani mattina, non abbiamo tempo. È sempre molto difficile. È fare sempre molto sintesi. Difficile, e cambia. Episodi a momenti. Credo. E infatti poi cambia a seconda dei periodi della vita. Diciamo che potrei dire, innanzitutto, un disco a caso di Paolo Conte. Perché tu ami particolarmente Paolo Conte? Sì, sì, sì. Lo sì, ami sì. Come musicista. Perché come musicista? Ma non lo so dire di preciso. Mi piace la sua vena così astratta, così... Sì. Così per parlare di immagini, questa sua... Infatti cerco di riprenderlo nel mio lavoro, nel mio... Ecco, Michele l'ha pescato. Beh. Cioè, lui riesce veramente, no, a prenderti e a portarti nella situazione che lui ha in mente, no? Dicendoti pochi dettagli, quelle cose giuste, e non solo ti porta in quella situazione, ma ti fa vivere quello che lui vuole farti vivere, no? Sì, e poi tu ovviamente lo reinterpreti, lo vivi a tuo modo, ma ti mette davanti a una situazione. E spesso non sai, ma che situazione è? Chiaro. Qual è? Non lo so, ma mi fa sentire in un certo modo emozionante, mi riesce a emozionare tantissimo. Io sono molto figlio del mio tempo e mi emoziono raramente con cose del passato. Del passato. Con te, sì. Non è che sia del passato, però ricordiamo una cosa fondamentale che molti sanno e molti forse non sanno. Il record di presenza nella Hit Parade è azzurro, e l'azzurro l'ha scritto Paolo, certo, Conte, certo. Quando non era il professor Conte, non era il cantautore di Chansonnier di adesso, l'ha scritto lui, Pallavicini Conte. Sì, anche azzurro è difficile da etichettare, anche sì, come testo. Esattamente. Però tutti sanno, cioè lui si riferisce a qualcosa che tutti sanno cos'è, ma nessuno riesce a dire cos'è. Esattamente, da mettere in testo. Per cui l'ho sempre preferito, questa vena anche ironica, molto apparentemente scanzonata, l'ho sempre preferita a quell'altro modo di fare cantautorato più legato al contenuto, significato che magari appunto appartiene più a De André, sì. E quella scuola lì che ovviamente stimo tantissimo, certo. E riconosco come una grandissima scuola, ma se devo seguire le mie emozioni li faccio trascinare da Paolo Conte. E continuo, me ne sono fatto trascinare e continuo a farmi trascinare da lui. Numero due è Nick Drake. Quando i musicisti citano Nick Drake, mi piace particolarmente, perché Nick Drake era un personaggio straordinario, capito poco all'epoca, ma con il tempo rivalutato continuamente, è un grandissimo artista. Certo. Poche cose ha fatto, troppe poche cose, però quelle sono state necessarie per portarlo avanti nel tempo. Sì, e devo dire anche il nome del disco. Sì, chiaramente. Pink Moon, vabbè, dai. L'apoteosi suo. Sì. Il terzo mirabile disco. Infatti per un periodo assurdo della mia vita ho cercato, come penso il 90% di chi da musicista si avvicina e si innamora di lui, ho tentato di riprodurre interamente il disco. È difficilissimo. Ci è perché arrivato. Delle sonorità, degli accordi difficilissimi. Io non me ne intendo di strumenti, però tu te ne intendi sicuramente e sai benissimo che è difficilissimo. Ma cioè, sì, una roba incredibile. Io sono riuscito, sì, con le mie cuffie, la mia chitarra, a riprodurre, non credo comunque in modo così fedele, un 6-7 pezzi. Gli altri non c'è verso. Anche perché purtroppo bisogna anche fermarsi per evitare di odiarli poi. Sì, quei chiaro, pezzi, chiaramente. Perché insomma sono pezzi che voglio che continuino a emozionarmi, non voglio legarli a degli accordi. Per cui sì, ma lui appunto è incredibile. Cioè ti fa pensare se era lui a essere tanto avanti o noi a essere indietro. Su queste sonorità, il fatto di io credo che la maggior parte dei musicisti, diciamo appunto folk, acustici, guardi più a lui che ad altri, sì. Forse nel panorama, cioè forse il cantautore degli anni primi 70, primi anni più, 70 più, 70. Più, mod- più, sì, più più contemporaneo, più avanti, più assolutamente avanti rispetto a tanti gli altri. Per quanto riguarda appunto queste atmosfere, anche i testi molto molto criptici, certo. E per cui lui. Siamo al secondo CD. E tre, potrei portare, visto che ho citato dischi di un certo periodo storico, porterei qualcosa di più moderno e ti dico Andrew Bird, un altro musicista di grande valore, però rimaniamo sempre comunque sì, nell'ambito non conosciutissimo, pensavo al mio ambito. Sì, chiaramente, ma non conosciutissimo in Italia, no. Conosciuto verso, chiaramente in Inghilterra o negli Stati Uniti, però qua molto non conosciutissimo. No, credo che, io sono andato a sentirlo suonare a Milano in maggio di quest'anno, io ero da solo. ci sorprende. Che bravo, Michele, ci ha sorpreso tutti, Michele. Ci ha sorpreso tutti. Grande Michele. Michele, bravo, bravo, Michele, bravo. Sappiamo. Comunque sì, lui da solo era imbarazzante, posso dire. Veramente un drago. Bravo. Il disco non saprei, forse è il primo che ho sentito suo, che si chiama, ha un nome lunghissimo, The ricordo. Mysterious, sì. Egg Production, sì. Of Egg. Un titolo abbastanza composito, sì. Però è lui, dai, la sua produzione, vogliamo. Lui, sì. È tutto, anche lui ha tutto questo universo da scoprire, da anche là. Poi se uno non è subito incuriosito, magari si lascia, diciamo, un po' annoiare, però ha tutto un immaginario incredibile. Chiaro. Suo stupendo. E siamo a tre. Poi il quarto, vorrei citare una cosa che, perché finora ho citato cose abbastanza prevedibili nei miei gusti. Facciamo qualcosa di imprevedibile, dai. Cosa di imprevedibile, mi faccio la difficoltà. Tu che hai un background che parte dal punk, dall'hip hop e altre cosette di quel genere. Beh, dai, un disco dei Fugazzi. Ah, ecco, quindi andiamo sul pesante. Sì. Anche se i Fugazzi, sul pesante sì, però non pesante negativo. I Fugazzi, come avevamo detto prima, hanno aperto molte strade, molti gruppi sono avvicinati ai Fugazzi. Sì. Chiaramente non sono mai arrivati allo stile Fugazzi, però si sono avvicinati. Sì, posso quello dire... non ce l'hai mica ai Fugazzi, No, qua. Un po' difficile. Qua ti volevo. Decisamente difficile. È vero che è colpa mia. Vabbè. E dei Fugazzi, ma Hand Eats, sì, è okay, quello va bene, un po' più... Non dico pop, ma no, forse però più tra virgolette accessibile, facciamo tra, sì, virgolette. E siamo a 4, sì. Il quinto, sai che il quinto mi è venuto in mente, adesso mi è uscito di testa. Aia, è sfuggito proprio dalla, no, ecco, dalla porta. È tornato. No, devo dire i Radiohead. Ah, beh, quei Radiohead ce li hai, quelli là. Diamo qualche secondo, però, che Michele però li cerca. Da dopo Ok Computer. Probabilmente noi avevamo Ok Computer, Karma Police, probabilmente avremmo quello. Sì, però io ti dico quello dopo, Echi Day. Ah, Echi Day, c'è un disco difficile. È diverso, sì. È un disco di evoluzione. E cosa ne pensi di Tom York come solista? Quell'album che ha fatto recentemente, l'anno scorso. Più di un anno scorso. Di Eraser. Sì. Bell'album. Sì. Un po' spiazzato, secondo me. Ma loro io non so cosa dire. Li ho visti due volte negli ultimi due anni. Li ho visto sia a Milano, sì, sia a bellissima, ecco, questa. Vedi, hai trovato qualcosa. Sì, andiamo avanti. Lui. Sì, dimmi. No, li ho visti sia appunto a Milano, sia un festival in si chiama Frequency Festival, sì, vicino a Vienna. Lo facendo quest'anno vicino a Vienna. E incredibile, cioè, non so neanche cosa dire. Un concerto loro è una roba, è un avvenimento praticamente. Sì, no, è una manifestazione di contemporaneità. Ecco, bella sta frase, una manifestazione di contemporaneità. Perché c'è tutto dentro, e c'è anche, ed è, riesce a essere anche minimale in quello che loro fanno e quello che lui loro pensano. Lui è un genio in assoluto. Sì, poi appunto la cosa da solista mi è piaciuta molto, anzi, proprio era quello che. Quello che io immaginavo volendo che lui fare facesse praticamente. No, io quello che io vorrei fare, quello che io avrei voluto fare quando era uscito, cioè giocare in quel modo con l'elettronica. Ho capito. Senso... proposito, tu ami particolarmente l'elettronica, leggevo tra le note. Qui l'elettronica non si sente nel disco, o c'è, è abbastanza. No, praticamente non c'è. Questo gusto elettronico che c'hai, come mai non l'hai messo in musica? Perché non c'era la possibilità? No, è perché non so, mi immagino l'elettronica come un oceano. Già la chitarra per me è un oceano. Ah, ok. Cioè, alla fine, è un pezzo di legno con 6 corde, però veramente ha dei. Tipo, ti permette attraverso di essa di perlustrare mondi infiniti. E reputo, cioè, ho questa considerazione di tutti gli strumenti. Per cui sono un po' intimorito. Ho capito. Sono un po' intimorito dall'elettronica e vorrei un attimo riflettere, cioè vorrei pensare prima di agire su cosa, che valore può avere l'elettronica in quello che faccio. Perché tendenzialmente mi piacciono molto i suoni caldi, che anche nell'elettronica riescono a recuperare quel calore. Per cui e vedo che comunque non piace solo a me questo, perché ultimamente l'elettronica si è colorita molto di, sì, è elettronica ma un'elettronica quasi analogica, perché sì, prende molto da strumenti vecchi, cioè strumenti degli anni 70, i primi sintetizzatori molto usati adesso, è un grande ritorno da quasi tutti i gruppi, anche electro, funk, sì, punk, sì, un grande ritorno agli strumenti di quel tipo. Sì, è una cosa positiva, indubbiamente, si colora, dà un certo senso, una certa sì, dimensione. Poi appunto, per tornare alla sfera nordica, scandinava, sì, ci sono tanti gruppi da quelle parti che lavorano sul connubio tra aspetto acustico, tra strumenti acustici o comunemente associati al cantautorato e elementi quasi elettronici, quasi apparentemente estranei, campionamenti poi e tutto eccetera eccetera, che ne fanno di una cosa molto, non lo so, è difficile da inserire, da etichettare. Si sente, ecco. Hanno parlato molto spesso di folktronica, sì, ma è già una parola costruita, ma anche che sta andando verso, sì, il non è una dimensione proprio giusta secondo me, no. Però non so, vedo che loro, cioè questi, citiamoli, questi, sì, questi, sì, possiamo citarli, tipo Psap, ecco. Sap, detto, certo. Tung, così, lo stesso José González che in realtà fa anche, ecco, questo è bello anche della loro dimensione di musicisti. José González, che appunto è un musicista molto drakeiano, sì, anche lui, che suona chitarra classica e voce, la sua etichetta però a tutti artisti di musica elettronica. Ecco, perfetto. Tutti artisti di musica elettronica e lui. E lui fa anche, ha fatto qualche... in una compilation molto interessante che si chiama Dark Was the Night, dove dentro ci sono praticamente tutti, cioè tutti gli artisti contemporanei che più stimo, tra cui appunto Andrew Bird, Bon Iver, come si... che ho visto recentemente a suonare qua a Padova. Come? Ti è venuto a suonare? No, mi pare di sì, se non sbaglio, mi pare di sì, l'ho visto. No, ma questa poi dobbiamo verificare. Sì, dobbiamo verificare, se è veramente così, io mi mangio le mani, i gomiti e anche le spalle. Dobbiamo verificare. No, vabbè. Vabbè, non importa, verificheremo a parte. Questa mi è rovinata la storia. Verificheremo a parte. Sì, praticamente è questo l'elemento. Sì, vabbè, stiamo parlando di musica elettronica, sì, esattamente, e acustica. È musica elettronica, perfetto. Io ti proporrei questo, di far sentire un altro pezzo dell'album tuo. Non so che traccia Michele ha predisposto. La traccia seconda, cosa dici? Sì, decide Michele. No, è già decisa Erasmus. Perfetto, sentiamo quella. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Fast as thought in this by your song, by your eyes and your song. Tell me how does it feel? You have me here, comes crashing down. Yes, it's real. Isn't it enough to forget? Isn't SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org. Ci potete sentire e vedere. Sì. Stasera abbiamo Brown the Lips, quindi in diretta, assolutamente in diretta. Diciamo delle cose, dei riferimenti del disco. Dove lo si può trovare innanzitutto? Il titolo, diciamo il titolo. Allora, diciamo tutto. Diciamo tutto, sì. Allora, Brown and the Leaves, e il disco si chiama Landscapes. Che ha una bellissima copertina con i covoni di fieno. Sì, dove, anzi vogliamo citare dobbiamo citare questa copertina, dobbiamo citarla. No, dobbiamo parlare di tutte le persone che hanno lavorato anche non musicalmente al progetto, che sono appunto Silvia Di Natale, che è la fotografa. In Friuli, a Udine, vicino a Udine, hai detto. Sì, sì, sì, no, chi ha lavorato sono tutti o amici degli amici. Perfetto. È stata una cosa molto familiare. Bene, bene. Ma in senso proprio positivo, perché sei riuscito ad avere un ottimo risultato, perché sono persone comunque, sono dei professionisti. Certo. Però con questo valore aggiunto dell'amicizia, della vicinanza. Per cui questa è una cosa a cui ci tengo molto e dobbiamo citarla, è giusto. Sono molto contento di avere queste persone vicino. Per cui Silvia Di Natale come fotografa, poi c'è i grafici che sono Piero Di Biase e Alberto Moreu, che sono Piero Di Biase è un tormezzino, Alberto Moreu è di Udine, e, appunto vive e lavora a Udine, e questi sono per l'artwork. Che diciamo. Bello, è bello l'artwork, ragazzi, è molto bello, fatto molto bene, molta cura. E poi, ok, adesso non vorrei, man mano... Ma citiamoli. Vabbè, sono queste le persone che hanno lavorato proprio al disco in sé, come manufatto. Diciamo. Certo. Poi sono tante persone che mi danno una mano, ovviamente, dentro il disco ringrazio anche amici, parenti e persone proprio che sono vicine al progetto. E, ok, non mi ricordo più di quello che stavo parlando. E parlavi del progetto delle persone che hanno partecipato. Ok, prima. Okay. E volevo sapere dove si può acquistare. Dove il disco? Si può acquistare? È in atto ora la distribuzione, per cui non so bene neanch'io come andranno le cose. Mi pare di che il disco si possa trovare innanzitutto ai concerti. E i tuoi concerti si trova sicuramente. Certo, lo chiedete direttamente a me. Appunto. Dopo il concerto, certo. Vi darò volentieri. Autografato anche. Autografato. Cioè. Benissimo. Quello che farai dopo, anche qui, benissimo. Ok. così. Poi nei negozi è un po' strano perché sì. Le copie in distribuzione sono sempre abbastanza, sono poche. Per cui credo che alla Feltrinelli, sì. Se c'è, ok, se non c'è si potrebbe ordinare, perché comunque c'è sul catalogo. Benissimo. E se no può essere acquistato online. Citiamo il tuo sito allora. Il sito del MySpace, che basta digitare Brown and the Leaves nella barra di ricerca e viene fuori la mia pagina, mi trovate lì, mi trovate anche su Facebook, è la stessa cosa, basta digitare Brown and the Leaves e compare la pagina d'artista e vi invito a diventare fan. Ecco, esatto. E a scoprire tutte le altre novità. Poi ci sono anche le recensioni, ci sono gli articoli, certo, tutte queste cose. Certo, là appunto si vede più o meno tutto quello che gravita e succede alla tua persona come musicista. Sì. Non so se ti ricordi, se vuoi citare le date, se hai qualche data in corso adesso. Sì, diciamo che ne ho fatte alcune in questo mese e mezzo abbastanza intenso di spinta, di promozione. Non ne rimangono moltissime in programma, ma ne sto programmando altre, per cui di certo c'è domenica prossima a Roma in una fiera, la fiera della piccola e media editoria che si chiama Più Libri Più Liberi, e sarà ospite di Fahrenheit, programma di Radio 3. Esatto. E per domenica pomeriggio dalle 3 alle 6. Infatti è una cosa un po' strana anche lì, perché insomma un orario, perché poi siamo con la band, quasi un concerto però in radio, concerto. Sì, come stasera, purtroppo stasera non sono con la band per impossibilità degli altri musicisti, però insomma sì, generalmente c'è anche da dire, ecco vedi. Dimmi. Vedi come sono, io sono un dimenticone, no? Dimmi. E giustamente poi le persone che suonano con me, quelli che mi seguono dal vivo, sono autorizzate a picchiarmi, perché io non mi ricordo queste cose. Non ho nominato, cioè una cosa molto grave. Le persone che mi seguono nei concerti, mi suonano con me. Filippo Marras, che è la persona che mi ha seguito fin dall'inizio nei miei concerti, suona la chitarra elettrica e il glockenspiel, la seconda voce e anche altre cose, che ovviamente è un mio carissimo amico, e anzi se mi sta ascoltando lo saluto. Bene. Non lo so se... Poi Marco Quaresiming al contrabbasso, che è un vostro concittadino. Certo, è padovano. E ultimamente si è aggiunto un violoncellista che si chiama Mariano. Mariano praticamente è udinese, però appunto siamo in un periodo di novità, perché io avevo questa necessità di avere un violoncellista anche dal vivo. E infatti è nata questa collaborazione con Mariano, solo che proprio è da pochissimo, per cui dal trio è diventato un quartetto, e vediamo cosa succede. Quindi chitarra acustica la tua? Sì, io chitarra acustica, chitarra elettrica classica, chitarra elettrica Filippo. Marco il contrabbasso e Mariano. E Mariano, questo è un new entry, possiamo dire, new entry, sì, nel gruppo. Per cui, infatti... Cioè, quindi saranno tutti a Roma questi tuoi amici? Sì, mi seguiranno a Roma. Perfetto. E ovviamente sono quelle persone che volevo ringraziare. Certamente. Prima, ma e dopo. La mia memoria non mi ha permesso di... Beh, ci siamo arrivati in tempo, sono prima delle 24, ti sei ricordato. Anche la mia stanchezza, visto l'orario, posso dirlo. È una stanchezza creativa. Sì, però appunto sono giornate un po' impegnative, e a fine giornata... mi dimentico, cioè già di mio che poi ho scoperto che probabilmente è una cosa dovuta a una leggera dislessia. Ah, ho capito. Per cui mi hanno detto che interessa anche la memoria a breve termine, per cui credo di giustificare così le mie dimenticanze. Non so se valgono come giustificazione. Ti sei giustificato. Okay, adesso è l'ora di un altro pezzo live, cosa dite? Sì. Ecco, meglio, perché forse è meglio suonare che parlare spesso. Sì, meglio suonare, sì, qualche volta. Cosa ci fai sentire adesso? Fragments. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org. Ci potete sentire e vedere stasera assieme a Brown Devil Leaves. Ripeto che il programma parte, si sviluppa in questo folk. Non possiamo dire acustico, folk. E basta, la tua l'hai creato te, Folca 360 gradi, Michele Tosoni in regia, alle guide delle telecamere c'è sempre Roberto Baldi. Questo sono due pezzi che amo particolarmente in questo album. Posso dire, mi sono dimenticato di ricordare nelle date in programma, anche una data il 20 dicembre a Milano. Perfetto. Milano, e sì, vi invito a seguire le informazioni che verranno aggiornate. Man dobbiamo mano. Cliccare sul sito. Allora. Su MySpace, su Facebook, è indifferente, tanto seguono le informazioni. Certo. Sì. I sistemi test e roba, li metti te dentro. Sì, sì. Fai tutto sì. Te. Sì, non hai quella che ti dà una mano o quello che ti dà una mano. No, però mi piacerebbe perché... Se la fai più è sì. Un po' faticoso. È un po' faticoso, sì. Restare, perché bisogna sempre essere aggiornati su queste robe. No? Sì, sì, aggiornati, aggiornare se stessi. Esatto, esatto. Sì. No, è importante. Poi io col computer ci ho dovuto... convivere inizialmente, poi fare pace ufficialmente, okay. perché io studio architettura e noi il computer lo usiamo tantissimo, certamente, soprattutto per tutte le cose legate al disegno, alla grafica, cose anche non molto semplici spesso, per cui per fortuna mi circondo di validi amici molto preparati nell'informatica, quindi riesci ad avere un appoggio, qualche consiglio, possiamo dire questo. No, un aiuto proprio. Un aiuto, anzi, vero e proprio. Soprattutto un aiuto, cioè un salvataggio in estremis, soprattutto, altro che è sì. Importante questo. È certo. Cioè, un musicista, quando uno fa il musicista, cioè per passione come te adesso in questo momento e va avanti un progetto, è anche difficile fare anche l'esperto in informatica. Sì, è difficile fare tante cose, ma in generale. In generale sì, chiaramente. Qua ci si vuole sempre esperti un appoggio, in tutto. Un aiuto, no, dai. Ma poi c'è questa richiesta, questo anche desiderio di essere, di arrivare dappertutto, di essere bravi dappertutto. Ma come si fa? È impossibile. Sì. Ritornando al discorso, ci sono due pezzi che amo particolarmente: la traccia numero 5, che abbiamo già fatto sentire, che abbiamo scelto come traccia importante, e questa qua. Questo bellissimo pezzo che tu hai descritto, che hai colorato, che hai costruito benissimo in questo momento in acustico. L'idea di questo Fragments, questo pezzo traccia numero 9, come è venuta fuori? Sì, inizialmente avevo un'altra ritmica proprio di arpeggio. Sì. Seguiva delle linee, non so dire neanche io bene che linee fossero, anche perché, ripeto, sono un pessimo, in linea teorica come musicista sono terribile, non so niente, non so. Però ti vengono fuori ste robe, ti accorgi. Non ho nessuna preparazione così teorica, a parte forse qualche studio da ragazzino col pianoforte, che tra l'altro è uno strumento che ho ripreso e inserisco e cerco di inserire dal vivo. Dal vivo. Solo che è un po' difficile. Certo. No? Per questo ancora, anche dal punto di vista del portale, sì, logistico. Logistico, esatto. No, infatti sto lavorando su questo, sull'integrazione di questo strumento che per me è stupendo e stupefacente. Però questo pezzo nasceva in modo diverso, ha preso un'altra forma più grezza. Sì. Prima aveva un arpeggio più legato più a corda a corda, adesso ho preferito questa schitarrata un po' più così imprecisa, una ritmica un po' diversa. E il testo nasce da una... era nel periodo in cui c'erano diversi articoli sul giornale di soldati, praticamente, sì, soldati americani che tornavano dalle missioni dall'Iraq, sì. E c'erano, come spesso accade dai ritorni dalle guerre, numerosi suicidi. Certo. Poi anche come questa sensazione che appunto c'è l'esercito, vabbè, che nell'esercito diciamo immedesimavo il governo, sì. Diciamo di questo senso di utilizzo di una persona per una determinata attività e poi una messa da parte di questa persona, perché erano alla fine miei coetanei, anche molto più giovani, che appunto partivano per l'Iraq, tornavano e sopravvivevano già a una situazione terribile, immagino, e si trovavano nel nulla nel loro paese, e in completa depressione. allora niente, mi son, cioè proprio era una cosa che poi ho scritto di getto senza neanche poi riflettere molto. Comunque parla di questo, parla di questi ho cercato di immedesimarmi in questi ragazzi miei coetanei che tornavano e si trovavano diciamo la guerra nella guerra, forse. Certo, invece di tornare a casa non è mica una cosa semplice, e portarsi la guerra difficile dietro con sé, penso che poi che poi non ti lascia più, no, credo. No, è difficile dimenticare, c'è sempre qualcosa, ripeto, che rimane. Sono solo immagini che mi sono creato io, per fortuna non ho mai provato e spero di non provare mai quello. Dovrei chiedere un'altra cosa, che questa, gli 11 pezzi che hai scritto erano pezzi antichi nel senso di qualche anno oppure pezzi venuti fuori sui ultimi tempi? Beh, come dicevo, forse già all'inizio, sì, all'inizio hanno una, prendono un anno, diciamo un anno di scrittura, sì. Ho capito, quindi abbastanza recenti, sì, sì, sì, sì, sì. Ne hai qualche un nuovo sul cassetto già pronto? Sì, ma un embrione praticamente. No, ma ci sono anche completati, però non sono là. Ah, sono là, aspettano. Aspettano. Anzi, infatti, c'è un pezzo che fa parte, è stato scritto in quel periodo, sì, cioè l'anno scorso praticamente, che non ho voluto inserire. Volutamente nel disco, sì, sì, perché nella scelta poi... Le scelte sono state tue o del produttore? Il produttore chi ti ha dato una mano? Ma tutte le scelte sono state prese di comune accordo. Cioè, sì, ci trovavamo davanti a certe decisioni e le abbiamo prese praticamente insieme. Ho capito. Magari non so chi influenzava più l'altro, però di certo non mi sono trovato niente fatto, certo, a tavolino prima da Paolo. Questa è cosa molto positiva. Sì, certo, certo. Fondamentale. Perché succede spesso e volentieri il contrario, qualche volta. Sì. No, dicevo di questo pezzo che sì, se ho la possibilità poi lo suono. Sì, beh, certamente abbiamo la possibilità. Pezzo, sì. Secondo me, io proporrei, non so se Michele sia d'accordo, di fare un pezzo dal disco e poi suoniamo gli ultimi due pezzi per concludere il live. Sì. Il numero 3, mi ha detto Michele. Ti va sì, bene? Sì, sì. Ok, sì, sentiamo sì, quello allora. Traccia numero 3. Ne parliamo dopo stavolta, lo sentiamo prima. Cosa dici? Ok, ok. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Gotta be the dark. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, 23 e 53, 23 e 54, quasi, siamo quasi verso la fine, però abbiamo deciso di fare due pezzi live. Sì. Spieghiamo un momento il brano che abbiamo sentito adesso. Sì, il brano tratta di un tema abbastanza intimo, mio personale. Quando l'avevo scritto non mi sentivo forse in sintonia con ciò che mi circondava, soprattutto con il mondo inteso proprio nella maniera più universale possibile. Allora cercavo di individuare qualcosa negli elementi esterni, certo, no? In questa mia mancanza di sintonia. Quando poi in realtà si lascia un po', lascia trapelare delle parole che in realtà forse qualcosa non va, va dentro di noi, dentro di me. È chiaro così. Che è così. Non è il caso di trovare le scuse fuori. Fuori, è vero. Niente, parla di questo, poi parla di altre immagini, ma insomma... Questo è il succo. Il succo di tutto. Bene, allora il primo pezzo live che ha deciso di suonare, questi ultimi due pezzi. Sì, sono due pezzi che non ci sono nel disco. Benissimo, quindi una new entry assoluta per noi. Sì, sono dei pezzi che comunque sì, mi piace suonare nelle occasioni, sia dal vivo che quando sono appunto in radio. E sono due pezzi che, a dire il vero, ripensandoci dopo non so di preciso perché non sono finiti nel disco, perché in quel momento forse non mi sembravano adatti nella scaletta, però sono due pezzi molto alle quali sono molto legato, soprattutto l'ultimo che suonerò, che per mancanza di tempo posso spiegare solo quello, credo. Vabbè, intanto cominciamo col primo dei due. Ok, il primo lo dedico ai miei luoghi, alle mie montagne di casa, perché parla di quello, parla della loro bellezza, insomma. Benissimo. Molto, molto semplicemente così, parla di loro. E che titolo ha? Living Birds. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Once again Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo, abbiamo finito questa bella cavalcata, proprio in perfetto orario. Perfetto orario. Questa bella cavalcata, questo, prima hai citato le montagne, e l'ultimo pezzo cosa citi? L'ultimo pezzo racconta una storia accaduta a mio nonno. Ah. Infatti ci sono molto affezionato a questo pezzo. Una storia molto bella. Lui stava per essere deportato in campo di concentramento, ha scritto una lettera. Molto bella, semplice, di cuore. L'ha scritta, l'ha gettata dal treno. Sì. E qualcuno l'ha trovata, l'ha presa, l'ha portata a casa mia, cioè a casa sua, che è la casa in cui vivo con i miei genitori. E difatti la lettera ce l'abbiamo noi ancora, certo, custodita. E per cui è arrivata fino a me questa lettera. È una lettera, come dicevo prima, molto semplice, che parla a sua moglie, a mia nonna, e dice appunto che tornerà presto, che non preoccuparsi, insomma c'era molta fede nel suo, in queste poche parole. Mio nonno era una persona di grande fede, e il motivo lo invidio anche adesso, perché insomma un particolare importante della storia è che poi è tornato veramente dal campo di concentramento, ha vissuto fino a 95 anni. Ah, bellissimo. Fino a praticamente età meravigliosa. Sì. Per cui sì, bellissima storia, e niente, ho voluto semplicemente fare una canzone. Ok, allora abbiamo finito con questo, adesso sentiremo l'ultimo pezzo di Brown Devil Lips. Grazie per la collaborazione, grazie per queste 2 ore che hai passato assieme a noi. Ma grazie a voi. Grazie a Michele Tosoni in regia, a Roberto Baldi che ha curato le telecamere. La prossima settimana, Michele, una sorpresa. Vedremo. State all'ascolto mercoledì prossimo. Buonanotte a tutti e grazie. Rock Wave. L'onda del rock. Tell till I I'll be stronger than that. I'll be stronger than that. Rock Wave, l'onda del rock.